Ciao Radio Risacca! Ciao, mi siete mancati tutti quanti! Ciao! E con grande richiesta Cemento e Curcuma è tornata e per chi se lo fosse dimenticato, qui avremo il piacere di parlare di piante, tisane, cosmesi, bellezza e autoproduzione. E vorrei mandare un grandissimo bacio alla mia spalla, che è stata con me per 10 puntate, ad Alice. Spero che ritornerà presto e spero che ci stia ascoltando. Ciao Alice, mi manchi tanto. Ciao. Ok, e adesso di che cosa parliamo in questo ritorno? Parliamo della rosa canina, detta anche rosa di macchia o rosa di fratta o rosa delle siepi. Perché rosa delle siepi? Per la sua forma a cespuglio, in grado di raggiungere oltre i 2 metri d'altezza. Quindi, ragazze e ragazzi, è facilmente riconoscibile. Le sue foglie sono alterne e i suoi fiori, che possono essere bianchi, bianco-rosati o rosa, sono formati da 5 petali e soprattutto è molto comune nelle boscaglie e nelle siepi lungo le strade di campagna. Quindi se vi capita e volete approfittare degli ultimi soli per andarvi a fare una passeggiata, sicuramente la trovate e approfittatene, perché questo è il momento di raccoglierla e la riconoscete dal suo frutto color rosso rubino. È bellissimo. E ricordiamo anche che cresce sia in pianura che sui monti e si raccoglie principalmente adesso, ok? È diffusa in tutte le regioni temperate e subtropicali dell'emisfero settentrionale. Quindi ragazze e ragazzi, se vi capita andare a fare le ultime passeggiate autunnali al sole, datevi un'occhiata intorno e raccoglietela, ok? Perché? Grazie ai suoi principali componenti, questa pianta, questo arbusto, è ricco di tannini, vitamina C, vitamina A, acido nicotinico, riboflavina, carotenoidi, flavonoidi, acido malico e acido citrico e soprattutto carboidrati. E infatti questa pianta è ricchissima dal momento che è ricchissima di vitamina C e tutte le proprietà che abbiamo appena nominato, è ottima per questo periodo autunnale, soprattutto per rinforzare le vostre difese immunitarie, ok? Copriamo anche i suoi principali impieghi terapeutici, soprattutto. È, prima di tutto, un ottimo astringente intestinale, un antidiarroico, un vasoprotettore e un antinfiammatorio, ok? Quindi se avete dei piccoli problemini intestinali, se avete problemini di vene varicose, di vasi circolatori e soprattutto se siete un po' raffreddati col primo freddo, ragazze e ragazzi, approfittatene, che questo è proprio il frutto e la pianta che fa per voi, ok? Scopriamo adesso un metodo semplice d'assunzione, nel quale possiamo farci una bella tisanina con bacche e foglie, ma mi raccomando, ricordiamoci di togliere i semi dal frutto, in modo che i semi e soprattutto la peluria all'interno, in modo da essiccarla bene, ok? Ricordiamo sempre il metodo di essiccazione. La mettiamo dentro il nostro bel sacchettino di carta, la mettiamo dentro la nostra dispensa, aspettiamo 5-10 giorni ed ecco a voi. Poi la potete travasare in un barattolo di vetro e la potete usare durante tutto l'anno, ok? Ricordiamo come fare la tisana. Prendiamo un bel cucchiaio di frutti e foglie, facciamo bollire 100 ml di acqua, E aggiungiamo la nostra pianta all'acqua bollente, lasciamo a riposo per 5-10 minuti ed olè! La vostra tisana ricchissima di vitamine C è pronta! E fatevi coccolare dal fantastico profumo di agrumi che emanerà la vostra tisana, ok? Approfittatene! E adesso spero che vi sia piaciuta, vi volevo lasciare anche una ricettina culinaria a base di rosa canina, ok? Quella più conosciuta a noi è proprio la confettura di rosa canina. Scopriamo come farlo. Allora, ci servono ingredienti: 500 bacche di rosa canina, 500 g di zucchero e dell'acqua. Quanto basta? Non è un procedimento estremamente lungo e non è neanche difficile. Ok? Quindi lo potete fare tutti e tutte a casa vostra. Questo con bacche fresche lo potete fare. Allora, tagliate a metà nel senso della lunghezza ed eliminate i semi e la peluria contenuti nella bacca. Sciacquatele bene, soprattutto per eliminare tutta la peluria. Mettete le vostre bacche in una pentola coprendole completamente con l'acqua fino a quando non si saranno ammorbidite. Ci vorranno più o meno 30 minuti, ok? O se no anche un po' di più. Mi raccomando, a fuoco medio. Se la volete più cremosa, potete anche frullarla con un frullatore ad immersione, ok? Se invece vi piace quella sensazione di frutta a pezzi, la potete anche lasciare intera, va bene? Quindi, e a questo punto, una volta che la bacca si è ammorbidita, potete unire lo zucchero e, se occorre, anche un goccio d'acqua in più, o potete aggiungere del succo di limone o delle spezie a vostro piacimento. Per esempio, a me piace molto la cannella, l'anice stellato, il chiodo di garofano, la noce moscata, un pizzichino per dare quel retrogusto in più. Ok? Quindi portiamo ad ebollizione, mescolando in continuazione per evitare che la confettura si attacchi al fondo della pentola, fino ad ottenere la consistenza desiderata. Può essere più cremosa o più liquida, a seconda di come vi piace a voi. Va bene? A questo punto versate la confettura ancora calda in dei vasetti sterilizzati precedentemente. Dopodiché chiudete velocemente, capovolgeteli in modo che si crei il sottovuoto e questa confettura la potete mantenere anche per un anno nella vostra dispensa e farvi tutte le scorpacciate che volete e tutte le scorpacciate di vitamina C e tutti gli effetti benefici che vi può donare questo frutto. Ok? Spero vi sia piaciuta questa ricettina culinaria. E fatemi sapere, va bene? E adesso invece è arrivato il momento della ricettina cosmetica. La leggerò ancora più piano, così che ragazze e ragazzi potete prendere appunti. In questo ritorno vi lascerò uno shampoo, la ricettina di uno shampoo agli agrumi per capelli grassi, ok? Allora, cominciamo. Ingredienti: per 250 ml di shampoo, 200 ml di shampoo delicato, ok? Io solitamente uso il neutro, il più neutro che trovate al supermercato, al discount. 50 ml di olio extravergine d'oliva, ma per chi vuole può usare anche dell'olio di ricino o dell'olio di cocco. 6 gocce ciascuno dei seguenti oli essenziali, tra limone, arancio, bergamotto e salvia. Per chi non avesse il bergamotto in quel momento, può anche usare l'olio essenziale di limone, ok? Che vi disinfetterà tutto il cuoio capelluto. Allora, è semplicissimo. Vi serve di versare lo shampoo in un flacone pulito o in una bottiglietta di vetro scuro. Aggiungete l'olio e gli oli essenziali. Tappate e agitate energicamente, mix, perché questo, in modo che gli oli essenziali con l'olio d'oliva o di qualsiasi olio che più vi piace e lo shampoo si compattano tutti e si diventa una cosa unica, ok? Allora, come si usa? Agitate prima dell'uso, perché che succederà? Una volta che voi lo mettete a riposo, lo shampoo e gli oli e l'olio si separeranno. Quindi, prima di ogni applicazione, voi che fate? Mix, mix, mix, mix, mix. Bravi, bravi. Poi, dopodiché, lavate i capelli come se fosse il vostro shampoo preferito, e spero che diventerà il vostro shampoo preferito, ok? E se lo desiderate, dopo ogni shampoo potete usare un balsamo, ok? Ma secondo me anche no, perché comunque è abbastanza nutriente. Poi, questo shampoo, ricordiamo, è molto delicato e anche efficace. I suoi effetti appaiono sempre più evidenti lavaggio dopo lavaggio. E un consiglio che io vi lascio in questo momento è: soprattutto per combattere i capelli grassi, cercateli di lavarli il meno possibile. Per esempio, io in una settimana li lavo ogni 3 giorni, ok? Per far sì che il vostro cuoio capelluto eviti la stimolazione di sebo, ok? E in più, col beneficio degli oli essenziali, disinfetterà il vostro cuoio capelluto, ok? Oppure potete cercare di alternare l'uso di uno shampoo a base di tensioattivi con uno a base di ingredienti naturali, tipo questo. Ok ragazzi, spero che questo ritorno vi sia piaciuto, e come sempre diamo a tutte l'opportunità di scriverci, chiamarci per qualsiasi informazione, per qualsiasi curiosità. Sono aperta a tutte e a tutti, ok? Possiamo parlare di quello che volete, quando volete, come volete, va bene? E a presto, Radio Risacca, è stato un piacere, sono emozionatissima, il grande ritorno, e ciao!